24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno cari ascoltatori, sono le 7:21 minuti, eccoci qua, è tornato il nostro alpino Peter Bescapè. E allora in regia ci accompagnerà fino alle 9, siamo anche sul nostro sito Facebook 24 mattino e oggi nella nostra, nel nostro approfondimento di attualità dalle 8:20 in poi parleremo ovviamente di quello che è successo a Roma, la devastazione all'interno di un corteo per la maggior parte pacifico, ma 500, 1000, chi lo sa anche quantificarli, hanno invece devastato parte di Roma. Ne parleremo alle 8:20, avremo il sottosegretario agli interni Alfredo Mantovano, altri ospiti più avanti, ma da cosa iniziamo? Beh, dalla lettura dei giornali che propone proprio questo, in primo piano soprattutto, quello che è successo e le polemiche successive agli incidenti di sabato. È lunedì 17 ottobre, allora intanto uno sguardo ai titoli di apertura, l'edizione del Sole 24 Ore del lunedì. Su manovra e mercati, conti esteri nel mirino, contatti con la Svizzera, anonimato per chi paga le tasse. Dopo Germania e Gran Bretagna, Berna punta all'accordo anche con l'Italia. Dunque una notizia per quel che riguarda l'accordo possibile con la Svizzera per recuperare i capitali all'estero. Poi, come detto, tutti i quotidiani generalisti parlano e titolano in prima pagina sulle vicende di sabato a Roma. Così hanno preparato l'attacco, questo è il titolo del Corriere della Sera. Repubblica e La Stampa hanno lo stesso identico titolo, Maroni evitato il morto. Per il giornale chiudete i centri sociali, i covi dell'odio, questo è il titolo di prima pagina. Il Messaggero invece, scontri di Roma, caccia ai violenti, Maroni evitato il morto. L'Unità mette invece in prima pagina la foto di uno di quelli che vengono definiti Black Bloc, giù la maschera, i manifestanti inviano filmati agli inquirenti, fermate i teppisti. Per il Secolo XIX caccia ai violenti con i video. Insomma, ma di questo ne parleremo più avanti. Intanto due segnalazioni per partire. La prima riguarda il sindaco di Verona, Flavio Tosi. Oggi finisce su tutti i giornali per una vicenda che non è politica, non riguarda le polemiche con la Lega, le dichiarazioni del sindaco che anche in passato hanno fatto fibrillare qualcuno nella Lega, ma per una vicenda di cronaca. Titolo del Corriere della Sera, Tosi spara. Colpito un ragazzo alla battuta di caccia alla lepre. È successo che Flavio Tosi, che è cacciatore e anche presidente di Federcaccia Veneto, mi pare di aver capito dalla lettura dei giornali, è andato a una battuta di caccia in Friuli e ha sparato a una lepre e di striscio alcuni pallini sono finiti nel ginocchio e nel braccio di un cacciatore, di un ragazzo che era con lui a cacciare. Ferito a braccia e gambe, il sindaco di Verona minimizza. Capita. Con noi eravamo lì alla tenuta Zonin a guastare la festa, lo sparo del sindaco contro la lepre, finita nel suo mirino, un nugolo di pallini fuori controllo. Alcuni si conficcano in un braccio e in una gamba di uno degli accompagnatori, che dopo le 13 dolorante arriva al pronto soccorso a Monfalcone, imbarazzato, perfino un po' reticente nel raccontare la sequenza dell'incidente. Alla fine osserva Tosi, di mezzo c'ero io e presumo che il ragazzo, immaginando la risonanza della notizia, avrebbe preferito omettere alcuni dettagli. Comunque le ferite riportate non sono gravi. E dice ora Tosi, pensi che per un incidente così banale si sono allertate la Guardia Forestale, la Polizia Provinciale, la Polizia di Stato, interrogatori, sopralluoghi. Spreco di energie, mi lasci dire, un incidente che capita. Così anche il Secolo XIX, pagina 8, Tosi spara e impallina un cacciatore. Il sindaco di Verona colpisce una lepre, ma anche un compagno di doppietta nei boschi friulani. Anche per Repubblica, mezza pagina, il sindaco Tosi impallina un cacciatore. Ora alcuni dicono, beh, qualcuno degli ambientalisti, almeno accertate le responsabilità, auspichiamo la revoca della licenza di caccia a Tosi prima che combini altri guai. In ogni caso, insomma, questa è la vicenda che riguarda il sindaco di Verona. Voglio segnalarvi un altro articolo sul Corriere della Sera, firma Michele Focarete, lo trovate a pagina 33, un'inchiesta che fotografa un fenomeno sempre più diffuso in Italia, quello di andare all'estero, per la precisione qui testimonia il reportage in Romania. Per che cosa? Per fare le pratiche di divorzio. Divorzi rapidi e a basso costo in Romania per dirsi addio. È una scorciatoia ormai per le coppie italiane che non possono permettersi le lungaggini burocratiche di un divorzio all'italiana, una media di 3 anni, e anche le spese all'italiana. Vanno in Romania le due parti, marito e moglie, vanno con gli avvocati. E nel giro di 3 mesi, con una scorciatoia dunque di tempo e spendendo 1.500 euro, anzi 6 mesi, bisogna attendere circa 6 mesi, è fatta. Divorzi low cost e last minute. Divorzi rapidi a basso costo in Romania per dirsi addio. Per esempio l'avvocato, ha intervistato l'avvocato rumeno del foro di Arad in Romania, Valentin Ciprian Badescu, si occupa di divorzi e sono sempre più, dice, quelli italiani che vengono qui. Ci sono anche servizi pubblicizzati, low cost e last minute. Sono le norme europee che rendono possibile la separazione legale di tutti i paesi dell'Unione Europea. E allora si va in Romania. Michele Focarete ne scrive sul Corriere della Sera. In 448, 6 mesi e una media di 1.500 euro rispetto alle spese italiane. Via. Il divorzio è cosa fatta. 24 mattino. Allora, le 7:34 minuti, continuiamo la lettura dei giornali e ci concentriamo sulle scene di guerriglia urbana e devastazione di Roma con annesse polemiche. Oggi sui giornali è davvero impressionante vedere anche la sequela di foto che continuano a essere riproposte di vera e propria guerra urbana. Per esempio le due domande che campeggiano a pagina 10 e 11 del Corriere della Sera, corredate da una serie di foto appunto di attacchi, assalti, devastazioni, sono: e ora chi paga? C'è ovviamente la quantificazione dei danni ancora da capire, sia alla città sia ai privati. E poi l'altra domanda è questa: qui si può fare come a Londra? E ci sono una serie di foto. Cosa è stato fatto a Londra? A Londra sono stati denunciate le persone utilizzando i video, le foto, le immagini. Per esempio ci sono delle foto nitidissime di persone, perché non tutti avevano il volto coperto, o comunque nella foga della devastazione qualcuno il volto se l'è scoperto, magari si è tolto il casco, si è tolto le sciarpe. E ci sono delle foto molto nitide di volti che si riconoscono, per esempio nell'assalto del blindato che poi è stato mandato in fiamme dei carabinieri, o gente che lancia sanpietrini. E queste persone sono riconoscibili, si possono cercare, si possono trovare. E l'invito anche da parte di tutti i manifestanti, e della maggior parte dei manifestanti pacifici che hanno sfilato sabato, è proprio questo: li denunceremo, daremo tutti i nostri filmati, tutte le nostre foto, tutto quello di cui siamo in possesso alle forze dell'ordine perché vengano identificati questi delinquenti. A proposito di questi, vi propongo una serie di interviste e commenti. Repubblica. Oggi intervista, firma Carlo Bonini e Giuliano Foschini, uno di quelli che viene definito i neri, no? Sono stati definiti così, i neri, perché si sono vestiti da un completo nero per devastare Roma. Eccolo qui, è un nero, F puntato, lo chiamiamo così, pugliese, 30 anni, una laurea, un lavoro precario, tutta la rabbia del mondo in corpo. Sabato le sue mani hanno devastato Roma. A pagina 3 l'intervista inizia così: poteva esserci il morto in piazza? Perché quanti morti fa ogni giorno questo sistema? Chi sono gli assassini delle operaie di Barletta? Si chiede questo ragazzo. Non i poliziotti o i carabinieri a 1.300 euro al mese, dice Repubblica, non quelli che pagano a rate le macchine che voi avete bruciato. Noi non ci siamo nascosti, risponde. Il movimento finge di non conoscerci, ma sa benissimo chi siamo e sapeva quello che intendevamo fare, come lo sapevano gli sbirri. In tutta l'intervista lui li chiama così, gli sbirri. Abbiamo fatto il master in Grecia per un anno, una volta al mese partivo in traghetto a Brindisi, biglietto ponte, andavamo lì per sfasciare, una gran voglia di sfasciare tutto. Ora però abbiamo l'organizzazione, ecco qui, e spiega un'organizzazione vera e propria militare con la quale hanno assaltato Roma sabato. Ecco qui, eravamo divisi in due falangi. I primi 500 si sono armati all'inizio manifestazione, avevano il compito di devastare via Cavour. Altri 300 li proteggevano alle spalle per evitare che il corteo potesse isolarli. L'ordine che avevano i 300 era di non tirare fuori caschi, maschere antigas, biglie, molotov, mazzette fino a quando il corteo non avesse girato largo Corrado Ricci. Gli sbirri, per capire, hanno dovuto aspettare di arrivare in piazza San Giovanni, dove abbiamo giocato l'ultima sorpresa, che è questa. La sera di venerdì avevamo lasciato un ducato bianco all'altezza degli archi che portano in via Sannio. Dentro a quel ducato avevamo armi per vincere non una battaglia, ma la guerra. E poi ancora, gli sbirri, per la terza volta, si sono confusi dal modo in cui funzionano le nostre falangi. Siamo divisi in batterie da 12 o 15, ogni batteria è divisa in tre gruppi di specialisti. C'è chi arma, recuperando in strada sassi, bastoni, spranghe, fioriere, c'è chi lancia o usa le armi che quel gruppo ha recuperato, infine gli specialisti delle bombe carta. Siamo in grado di assicurare un volume di fuoco continuo. Tanto che, appunto, Bonini e Foschini dicono: ma lei parla come un militare. Parlo come uno che è in guerra. Non l'ho dichiarata io, l'hanno dichiarata loro. Loro chi? Non discuto di politica con due giornalisti. E con chi ne discuti? Ne discuto volentieri coi compagni della Val di Susa. Sono stato lì a luglio e vi do una notizia: non è finita. Insomma, parla veramente con organizzazioni, con un'organizzazione militare, proprio avete sentito la divisione in falangi, la sottodivisione in gruppi, c'è chi arma, c'è chi tira, c'è chi lancia. Ne ha fatto le spese soprattutto, e la sua foto ha fatto il giro del mondo, questo carabiniere che abbandona in fretta e furia il blindato che poi è stato dato in fiamme e che ora viene intervistato sempre da Repubblica, pagina 9. Come sta? Così come mi vede, mi è andata bene, domani verrò operato, ero sul blindato da solo. C'erano cubetti di porfido, bastoni, assi di legno, segnali stradali, sono rimasto incastrato, mi sono venuti addosso, mi hanno attaccato con spranghe, un asse di legno, alla fine mi hanno colpito in pieno viso, mi hanno rotto il naso e la faccia, meno male avevo il casco, solo così mi sono salvato. Poi racconta di manifestazioni, ne ho fatte tante, ma una cosa del genere non l'ho mai vista. Intervistato da Mauro Favale, il poliziotto identificato come Fabio, il carabiniere autista unico a bordo di questo blindato che è fortunatamente riuscito a lasciarlo in fretta e furia per mettersi in salvo. Ma d'altronde sono tanti i racconti. Per esempio, guardate il secolo XIX, che cosa racconta pagina 3. Sono state fermate alcune persone, 12 per la precisione. Tra questi fermati, uno delle persone fermate è il figlio di un funzionario della Banca d'Italia. L'istituzione nel mirino di tutti, indignati, black bloc, ancorché con forme diametralmente opposte. Ecco i 20 fermati. Hanno tutti meno di 30 anni, 12 quelli finiti in carcere, altri 8 denunciati a piede libero, 5 sono romani, uno di Lecce, ma studente a Bologna, uno di Brindisi, uno di Catania. 6 sono minorenni, 4 sono donne. E fra i residenti nel Lazio, ma il dettaglio sarà più approfondito oggi, figurerebbe appunto anche il figlio del dirigente della Banca d'Italia. Tra le varie interviste vi segnalo anche Valentino Parlato, uno dei fondatori del Manifesto, che ieri ha fatto un editoriale dicendo, insomma, la violenza va un pochino capita. Sentite che cosa dice, intervistato da Repubblica, Alberto D'Argenio. La voglia di spaccare tutto, la pazzia, il delirio, anche loro hanno una causa. Cerchiamo di capirla. Metterli in galera non basta, bisogna capire. Di fronte alla criminalità si può dire la stessa cosa: è sbagliato delinquere, ma per quale disagio sociale lo fai? Ecco, Parlato dice bisogna capire. Poi alla fine dell'intervista addirittura lancia questa provocazione forte. Lui stesso dice è un'ipotesi estrema dell'irrealtà. Ma è la solita ipotesi dietrologica, che siano agenti provocatori pagati da qualcuno, quelli che hanno devastato. Da chi, chiede Repubblica? Da Berlusconi? Chiede Valentino Parlato. Di soldi ne ha tanti, anche se è un'ipotesi estrema. Ecco, ancora una volta. Valentino Parlato, la legge così. C'è poi una polemica relativa, perché le immagini ricordano questo, anche quella foto, vi ricordate quella foto dell'estintore? Io appena l'ho vista, la foto simbolo di questi assalti di sabato, era un estintore lanciato verso un blindato della polizia. Non poteva non venire in mente la vicenda del G8 di Genova, no? Con Carlo Giuliani con in mano quell'estintore. Infatti tutti i giornali puntano su questa assonanza di immagini. Il Giornale titola in prima pagina: chiudete i centri sociali. E c'è un articolo di Mario Cervi: chi mitizza Carlo Giuliani sta con i criminali. E c'è proprio la foto simbolo di allora, Carlo Giuliani con in mano l'estintore poco prima di essere ucciso, e la foto di uno dei violenti di Roma che scaglia un estintore contro i carabinieri. Tra l'altro Vittorio Feltri ne parla così all'interno di un articolo nel quale difende le forze dell'ordine. La vicenda del G8 di Genova, la ricordate? C'è un ragazzo di leva, un esiliario dell'arma, imprigionato nel veicolo, un tale che non cito, che poi è stato santificato, a dire Carlo Giuliani, ha tra le mani un estintore sul punto di lanciarlo addosso al carabinierino, il quale, sentendosi perduto, spara e fredda l'aggressore. Invece di dargli una medaglia, lo processano. Per poco non finisce in galera. Questo per dire che razza di paese è il nostro. Eppure proprio Giuliano Giuliani, vale a dire il padre di Carlo Giuliani, fa un intervento sull'Unità, oggi pubblicato a pagina 6 e 7, dal titolo «I teppisti non si nascondano dietro il nome di Carlo». «La lezione di Genova non è servita a niente», dice Giuliano Giuliani in questo intervento. «E poi, ecco l'accusa, non è difficile individuare i violenti. Se non lo si fa è perché va bene così. Ci si guadagna allarme e condivisione per una logica repressiva indiscriminata. Ma rendere inefficaci quelle illogicità è anche compito delle strutture politiche. Può dipendere anche da quanti condividono le speranze e le giuste aspirazioni dei tanti giovani che erano a Roma». E poi il finale dell'articolo, anche questo molto forte: «Resistere a una carica violenta è un diritto e anche una pratica rispettabile. Carlo ci ha provato». Così il padre di Carlo Giuliani, Giuliano Giuliani. Allora, alle 7:46 minuti, come vedete, la politica oggi va un po' in secondo piano. Ci sono tutte le polemiche, tutte le immagini, l'immagine molto forte, le foto di quello che è successo sabato a Roma. Che cosa vi voglio segnalare di politica o annessa politica? Beh, come abbiamo sentito anche in GR24, oggi Repubblica pubblica quelle che vengono definite le telefonate shock con la vitola del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. La vicenda riguarda la procura di Pescara che indaga sui fondi dell'Avanti, vale a dire il giornale di cui era direttore la vitola, e eccole qua le intercettazioni. Nelle polemiche di pubblicare o non pubblicare le intercettazioni, oggi ce n'è un'altra bella, due paginate, con Giuseppe Caporale e Liana Milella ne scrivono all'interno a pagina 10 e 11. La telefonata che fa più discutere di la vitola che chiama Berlusconi, che dice come va, male. Allora, ecco lo sfogo di Berlusconi al telefono. Parliamoci chiaro, la situazione oggi in Italia è la seguente: la gente non conta un cazzo, il Parlamento non conta un cazzo. Siamo nelle mani dei giudici di sinistra, sia nel penale che nel civile, che appoggiandosi a Repubblica e a tutti i giornali di sinistra, alla stampa estera, e la vitola conclude, ci fanno un culo come una casa. E poi eccolo qui, ancora continua Berlusconi, un fiume in piena al telefono. Quando in Parlamento decidono qualcosa che la sinistra non va, interviene il Presidente della Repubblica, che intanto non te la fa fare prima, come quella delle intercettazioni. E poi passa tutta la consulta, che hanno occupato, con 11 giudici la bocciano. Berlusconi, che parla di sé in terza persona, Berlusconi è sputtanato, tiranneggiato, se va in tribunale a chiedere giustizia perché gli hanno dato del buffone. Berlusconi va a Messina, lavora tutta la mattina per rifare le case, va in chiesa, sta 3 ore in piedi con la gamba che gli fa male di fronte alle bare, abbraccia coloro che deve abbracciare, poi dalla chiesa va alla macchina e gli dicono assassino, buffone, vergogna, e non succede niente. Vado da un avvocato, gli dico vorrei denunciare questi qua, e l'avvocato mi dice lei vuol perdere tempo e soldi. Insomma, un Berlusconi che conclude questo sfogo e dice: sai che dobbiamo fare? Portiamo in piazza milioni di persone, facciamo fuori il Palazzo di Giustizia di Milano, assediamo Repubblica. Cose di questo genere. Non c'è un'alternativa. Insomma, uno sfogo di Berlusconi sul quale Repubblica ora dice: le telefonate shock, rivoluzione con milioni in piazza, fare fuori il Tribunale di Milano. Diamo l'assedio a Repubblica. Poi ci sono anche altre telefonate, se vi volete dilettare, a pagina 10 e 11 per l'appunto. Di politica segnalo anche sul Corriere della Sera un'altra intervista del presidente della Commissione Antimafia Beppe Pisanu. Non è la prima volta, torna a ribadire, intervistato da Aldo Cazzullo a pagina 15, questo governo non può durare, ci vuole una maggioranza ampia oppure si voterà presto. E poi guarda al nuovo impegno politico dei cattolici che oggi si ritrovano a Todi: non credo al partito cattolico ma a un movimento liberale e Casini può guidarlo. Insomma, la politica è questa qui. C'è anche un po' di politica gossip, torna, riguarda Italo Bocchino di Future Libertà, gossip e politica, pagina 10 del Giornale, riprende in realtà l'intervista di ieri di Riccardo Iacona, presa diretta. Bocchino e il trans Manila, la macchina del fango si rimette in moto su Rai 3. Ci sarebbero in circolazione delle foto che ritraggono insieme appunto il leader di Future Libertà con la trans Manila Gorio. Per la verità Bocchino dice: certo che l'ho incontrata, è iscritta all'ordine dei giornalisti, mi ha chiesto un'intervista, non vi è alcuna ragione per cui uno che non è affetto da omofobia non vada a un'intervista. Per Anna Maria Greco invece la domanda è questa: sono frequentazioni pericolose o inopportune di Italo Bocchino, in questo caso con la trans Manila Gorio, che di recente ha detto ha avuto una storia con un politico ma non dirò mai il suo nome? Insomma, tornano i gossip e quant'altro riguardo a politica e sesso. Uno sguardo all'estero. Lo voglio fare perché domani è un giorno importante in Medio Oriente, ne parlano tutti i giornali nel mondo, in Italia colpevolmente come al solito siamo molto miopi e non ne parliamo, ma domani dovrebbe essere il giorno della liberazione del soldato israeliano Gilad Shalit, che dal 25 giugno 2006 è stato rapito a Gaza ed è in mano ai palestinesi. Sarà scambiato con 1027 prigionieri. Capite che questo rapporto 1 a 1027 sta suscitando un dibattito notevole in Israele, e non solo. Domani lo scambio, subito liberi 477 palestinesi. La Stampa, il giornale che dedica più spazio a questo, vi dedica due pagine con un intervento anche dello scrittore Avraham Yehoshua, che scrive a pagina 17: perché è giusto il principio mille in cambio di uno? Proprio rispondendo alle critiche, dice Yehoshua: c'è chi deplora questa disparità numerica dello scambio, gente che sarebbe disposta ad accettare il rilascio di un unico prigioniero palestinese fosse anche responsabile del più efferato attentato terroristico, ma non quello di centinaia. A questa presa di posizione potrei replicare che fin dall'inizio del conflitto arabo-israeliano gli israeliani hanno ottenuto risultati notevoli a dispetto della loro inferiorità numerica. Quindi, esigendo il rilascio di 1000 prigionieri in cambio di un unico soldato, Hamas chiede in pratica di raggiungere un qualche equilibrio militare, non umano. In altre parole, 1000 dei loro prigionieri che lottano con coltelli, cinture esplosive, ordigni e razzi primitivi valgono uno solo dei nostri soldati. Israele è rassegnato alla propria inferiorità numerica, continuerà ad addestrare i suoi soldati in modo da poter superare questa lacuna. Un unico prigioniero in cambio di migliaia non è un'umiliazione perciò o una resa, ma un accordo accettabile che riconosce anche da parte del nemico la capacità militare dei combattenti israeliani. Insomma, però c'è molta discussione perché tra questi palestinesi che verranno liberati ci sono, c'è gente che si è macchiata di delitti efferati, gente che ha collaborato a far saltare in aria per esempio il proprio fidanzato in un locale causando 16 morti in un attacco suicida. E insomma c'è molta polemica. In ogni caso domani sarà libero con il presidente israeliano Shimon Peres, che dice: firmerò le liberazioni di questi palestinesi ma non li perdono e non dimentico. In ogni caso, devo chiudere, insomma, il tempo è davvero poco. Oggi ci sono tante notizie che vi invito a leggere. Sul Sole 24 Ore, la questione della partita aperta sui tesori oltre confine, come detto il titolo d'apertura, l'accordo cioè tra Italia e Svizzera che forse si profila per cercare di contrastare i capitali all'estero. Vabbè, chiudo allora, visto che è lunedì, con uno sguardo alla Gazzetta dello Sport. Il titolo: Io non ci sto, è Massimo Moratti, presidente dell'Inter, che rischia la retrocessione a questo punto, no? Se finisse il campionato adesso, ma poi insomma, vinceranno tante partite, si riprenderanno. Non ci sto, 3 rigori su 4 non c'erano. È un Inter in difficoltà che adesso col presidente si vuol far sentire. Il titolo ovviamente è anche Lazio, super derby pazzo, vinto a 15 secondi dalla fine. Voglio lasciare con Gene Gnocchi oggi con il rompipallone. Filippo Magnini, dice il nuovo fidanzato di Federica Pellegrini, sono d'accordo con Fede, fare l'alzabandiere per 8 ore è molto faticoso. 24 mattino. Allora, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:22 minuti. Ciò che è successo sabato a Roma ovviamente campeggia su tutte le prime pagine dei giornali. Ne vogliamo discutere intanto con il sottosegretario agli interni, Alfredo Mantovano. Buongiorno e benvenuto, Mantovano. Sì, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Senta, intanto ci può dire qualcosa? Le agenzie parlano di un'operazione in corso in questi minuti dall'alba nei confronti di cosiddetti ambienti anarco-insurrezionalisti. Ci può dire qualcosa in più? Beh, è il seguito di ciò che è avvenuto sabato. Si acquisiscono elementi utili per le indagini che ovviamente sono partite nell'immediatezza delle devastazioni e che utilizzano tutto ciò che è a disposizione, a cominciare dai filmati e dalle immagini. Senta, qualora vi fosse accertata una connivenza per esempio di alcuni centri sociali, oggi il giornale titola così: chiudiamo i centri sociali. Lei la vede un'opzione? Io credo che non si debba passare dall'apologia della bomba incendiaria all'apologia del manganello. È importante distinguere sempre, soprattutto quando si parla di ordine pubblico. Sabato c'erano migliaia e migliaia di persone che anche in modo aspro ma intendevano esprimere il loro legittimo dissenso. Metterli sullo stesso piano dei criminali che si sono resi protagonisti di tutto ciò che abbiamo visto, pur essendoci delle fasce grigie intermedie, ma significa non riuscire a capire, non voler capire l'articolazione e la complessità della realtà. Cioè, la responsabilità è sempre personale, ovviamente. Ci può essere qualche persona che si appoggia a centri sociali, ma questo non vuol dire che bisogna, diciamo, coinvolgere tutto il centro sociale, giusto per tradurre così? Sì, diciamo che un po' di cautela e di attenzione da parte di tutti non guasta, e che un eccesso di comprensione nei confronti di atti di violenza va eliminato, nell'interesse degli stessi manifestanti, la cui piazza sabato scorso è entrata nelle cronache come l'esaltazione della violenza, ma il messaggio che loro volevano dare era un altro. Allora, se deve essere un altro il messaggio, ci deve essere l'impegno di tutti, anche di loro, a tenere il più possibile isolati i devastatori. E a questo proposito, che ne pensa della manifestata propensione a dire collaboriamo e daremo a tutte le forze dell'ordine, da parte della maggioranza delle persone pacifiche in piazza, le foto, i filmati, insomma, in modo da identificarle e denunciarle? È un ottimo segnale, in linea peraltro con quello che già è accaduto durante la manifestazione, quando vi è stato in più di un'occasione uno scontro tra i manifestanti pacifici e quelli violenti, i primi non tollerando la strumentalizzazione dell'organizzazione del dissenso da parte loro, e addirittura in qualche caso si è arrivati anche all'indicazione alle forze di polizia di chi era autore delle violenze, così va bene. Senta, che pena andrebbe contestata secondo lei a queste persone, a una, idealmente una di queste persone, che ne so, quello che ha fatto, uno che ha fatto l'assalto a un camione, al blindato dei carabinieri? Ma guardi, non voglio sostituirmi a chi farà queste valutazioni o a chi è chiamato a farle, ma certamente è difficile andare lontano dal tentato omicidio, dall'incendio doloso, dalla devastazione. Sono reati puniti in modo assai pesante dal codice penale. Io quello che posso auspicare è che non ci sia il bis del 14 dicembre, perché finora nel sistema sicurezza una lacuna è costituita dalla risposta giudiziaria, che è stata risibile, è stata in certi casi irridente nei confronti di ciò che è accaduto e nei confronti anche di chi ha subito, cominciare dalle forze di polizia, i danni più gravi di tutto questo. Ma è per questo che gli ho chiesto, riferito al 14 dicembre, ma lei crede che i magistrati abbiano applicato le norme oppure si poteva fare di più per tenere quelle persone in carcere come tenerle adesso nel caso? Io credo che ci sia una differenza tra l'applicazione delle norme e l'interpretazione spesso ideologica delle stesse. E troppo spesso accade che l'uso legittimo degli strumenti di dissuasione da parte delle forze di polizia venga sanzionato penalmente, e altrettanto di frequente che coloro che lanciano i sanpietrini, e sfido chiunque a trovarsi sulla traiettoria e a farne la prova per capire che cosa significa, e invece di essere una persona che attenta alla vita di altre persone, un bravo giovane che ha avuto un momento di stizza e che comunque va compreso. Sottosegretario, ci sono anche le polemiche inevitabili ogni volta sulla gestione dell'ordine pubblico. Le leggo per esempio quello che oggi scrive Giuliano Giuliani, un cognome che forse non ha bisogno di ulteriore presentazione, ma insomma è il padre di Carlo Giuliani, in un intervento all'Unità. Non è difficile individuare queste persone, se non lo si fa è perché va bene così, ci si guadagna allarme e condivisione per una logica repressiva indiscriminata. Molti però chiedono come mai, se tutto lasciava presagire questo, non si è intervenuto prima, è così difficile? L'ordine pubblico è la cosa più difficile da garantire, bisogna capire quali interessi devono prevalere. Finora vi è stata una linea di equilibrio tra la salvezza anzitutto delle sedi istituzionali, che vengono chiamate spregiativamente i palazzi del potere, però credo che l'Italia avrebbe fatto una figura ancora peggiore se fosse stato occupato Palazzo Chigi o il Senato o la Camera, come si era tentato di fare il 14 dicembre, in particolare col Senato. Non vi è stato nessun mostro, e questo benché fosse stato cercato dagli anarchico insurrezionalisti, che l'avevano anche preannunciato nei loro blog nei giorni precedenti, è un merito esclusivo delle forze di polizia, della loro professionalità e della loro generosità. Si può fare di più e si può fare di meglio, però il confronto con Genova, che più di uno ha fatto, mi sembra assolutamente improprio, perché improprio. Sono stati fatti dei passi in avanti notevoli, cioè nel senso non c'è stata l'accusa che viene fatta è quella di inazione, cioè di non essere intervenuti subito, ma è anche questa una strategia di ordine pubblico? Ma quando un anarchico con il casco, con gli strumenti offensivi, prima infrange la vetrina di una banca e poi si mette in mezzo a 20-30 manifestanti pacifici, intervenire in quel momento significa inevitabilmente ledere persone inermi che non c'entrano nulla con quell'attacco. Sto facendo un esempio molto banale, ce ne potrebbero essere tanti altri. Allora lasciamo il compito della decisione, della valutazione delle forze di polizia a chi interviene, e poi valutiamo i risultati. Credo che per valutare i risultati non tutti gli elementi siano in questo momento completamente a disposizione, ma sarei molto cauto nel fare come si faceva una volta con la nazionale di calcio, e tutti siamo bravi a dire qual è la formazione giusta, ma dopo, sempre dopo. Intanto la ringrazio, buona giornata. Il sottosegretario agli interni Alfredo Mantovano, ma certo noi continuiamo a parlare di quello che è successo, se magari se eravate a Roma, se avete visto qualcosa. 800 24 00 24, il numero per intervenire in diretta, tra poco con esponenti politici, tra chi c'era. Ne parleremo, le ovvie anche discussioni su quello che è successo, perché è successo a Roma e in tanti paesi del mondo si è manifestato in maniera più o meno pacifica. 24 mattino. Allora, alle 8:37 minuti, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, eccoci qua, perché magari Avete visto, eravate a Roma? Avete visto qualcosa? Siete stati testimoni della manifestazione di sabato con le annesse questioni oggi di cui si parla sui giornali. Poco fa ne abbiamo parlato con il sottosegretario all'interno Alfredo Mantovano a dire sono tutti bravi a gestire l'ordine pubblico dopo. E sono tutti bravi come se fosse, diciamo, essere i CT della nazionale italiana di calcio, 60 milioni bravi di italiani a fare la formazione, ma dopo l'ordine pubblico è una questione molto molto difficile, la più difficile da gestire. Allora voglio salutare l'onorevole Franco Barbato dell'Italia dei Valori, buongiorno e benvenuto Barbato. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Saluto anche Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera inviata, buongiorno Fiorenza. Buongiorno a voi. Che oggi scrive sul Corriere della Sera come e come si era saputo, insomma c'è Fiorenza, mi pare di capire, una organizzazione ormai accertato, quasi si può dire militare da parte di questi, quanti li vogliamo quantificare, 500, un migliaio, non si sa, che hanno devastato Roma, e lo dimostri anche con l'articolo che hai scritto, una vera e propria capacità di organizzarsi, una capacità di andare in giro per l'Europa a prendere lezioni anche di come si fa guerriglia urbana e poi applicarla, è così? Almeno dei primi riscontri investigativi sì, sembra sia proprio così. Del resto poi chi era in piazza, chi li ha visti in azione ha visto che sì, sembravano, diciamo, delle schegge impazzite, ma impazzite tutte insieme, quindi è vero che in piazza poi ci si fomenta e che effettivamente in piazza San Giovanni, quando loro sono arrivati e sono andati all'attacco delle forze dell'ordine, poi sono riusciti ad aggregare anche ragazzi e persone che erano partite, diciamo, in maniera pacifica, però per come erano equipaggiati, per come si sono mossi nel corteo, per quello che hanno fatto, una regia, insomma, mi sembra abbastanza evidente. Tra l'altro uno di questi è anche intervistato da Repubblica, dice: abbiamo il venerdì messo un ducato bianco nel quale c'erano armi per vincere la guerra, e parla proprio di guerra. Ci siamo addestrati in Grecia, ora siamo organizzati in falangi, in gruppi piccoli, uno fa una cosa, uno un'altra, cioè proprio un'organizzazione militare vera e propria. La Val di Susa è uno di questi punti caldi dell'Italia dove, Fiorenza, tu dici, sì, purtroppo alcune di queste persone si addestrano. A Piazza San Giovanni era impressionante vedere quanti ragazzi avessero la maschera antigas, quindi diciamo che, appunto, se tu vai a una manifestazione con la maschera antigas nello zaino, insomma, non è che ci vai per sfilare pacificamente. Questo, insomma, si sapeva anche già. Tra l'altro, Franco Barbato, onorevole Barbato, noi l'abbiamo chiamata perché lei era a manifestare, uno della stragrande maggioranza di persone che ha manifestato in modo pacifico e ha cercato anche in qualche modo, ovviamente in modo artigianale, sopraffatto poi dalla violenza di queste persone, di cercare di fermarle. È stato davvero, si diceva questa violenza era abbastanza annunciata. Intanto che facciamo? Distinguo senza se e senza ma da questi episodi, Barbato? No, io penso che bisogna innanzitutto chiamare le cose con il loro vero nome. Vero è che poteva scapparci il morto, ma io, avendo assistito e sono testimone di quello che è accaduto, posso serenamente dirvi che il morto c'è già scappato. Il morto, politicamente parlando, è il ministro Maroni, perché è il vero responsabile di quando è accaduto ieri l'altro a Roma. E vi dico perché. Perché io ho iniziato da Piazza della Repubblica, ci siamo inoltrati, avviati con il corteo in via Cavour, e quando in via Cavour una ventina circa di questi delinquentucci, perché da tanti componenti era composta la squadra paramilitare che ha iniziato una serie di raid lì in via Cavour, dove hanno sfasciato la prima Audi nera un fuoristrada con targa estera, Repubblica di San Marino, poi sono passati alla seconda Mercedes chiara sul lato destro, poi addirittura hanno tranquillamente e disinvoltamente violato. Quindi lei dice le forze dell'ordine non sono intervenute, questo no, mi sta dicendo. Scusa, non è che non sono intervenute, su via Cavour non c'era un solo poliziotto, non c'era l'ombra di forze dell'ordine ed è la ragione per la quale questi delinquentucci hanno potuto compiere dei reati disinvoltamente. Perché li chiama, perché li chiama delinquentucci già due perché volte? Perché compivano dei reati, perché nel momento in cui si viola una proprietà privata e si salta su un albergo o si scassina e si assalta un ufficio postale o un negozio o si incendia un'autovettura di turisti, di stranieri, questi sono reati perseguibili a norma di codice penale. Sai che allora... cosa però? Il sottosegretario Mantovano qui poco fa ci ha detto, la questione è questa, se uno di queste persone fa un atto violento e poi si mischia nel corteo, perché questo è successo, cioè erano mischiati... No, non è vero, No, erano lì, identificabili tutti... Certo, e vi dico perché, un'altra bugia che dice il ministro è che si sono fatti scudo del corteo, non è affatto così, perché erano distinti e distanti dal corteo, tanto è vero che dagli autocarri degli organizzatori dove c'erano gli altoparlanti, si annunciava da lì su: delinquenti, state distruggendo, il corteo è invitato a camminare fiancheggiando il lato sinistro della strada, mentre loro erano sul lato destro dove incendiavano e scassavano i negozi. Vabbè, insomma, diciamo, non erano proprio distantissimi, erano a qualche metro. Erano distinti e distanti, e se ci fosse stata la polizia che immediatamente interveniva, accerchiava, poteva farlo. Ma venivano prese di mezzo anche persone, lo sa bene anche lei, cioè, venivano prese di mezzo anche persone che passavano lì, ripeto, quando c'è una carica, modo più poi assoluto, no? Perché non erano con il corteo, perché queste operazioni le facevano individualmente, erano letteralmente scorporati e lontani dal corteo. Vabbè, ma lei pone il punto su una delle questioni che oggi è affrontata dai giornali, vale a dire le polemiche, Fiorenza. Le polemiche sulla gestione, sulla questione lei ha fatto una polemica dicendo c'è un responsabile, è vero, è il ministro dell'interno Maroni, sulla gestione dell'ordine pubblico. Da qui facciamo così, diamo le informazioni sul traffico e da qui voglio ripartire. La gestione dell'ordine pubblico, ne parliamo anche con Fiorenza Sazzanini, che conosce insomma le dinamiche di cosa succede in queste altre manifestazioni. Qualche ascoltatore, 800 24 00 24, qualcuno magari di Roma, qualcuno che ha visto, qualcuno che ha partecipato. Sono le 8:47 minuti, 800 24 00 24. Allora, qualche ascoltatore. Stefano da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io ho partecipato alla manifestazione, quello che voglio dire è brevissimo. Due che ho notato, e devo dire invece un comportamento della polizia abbastanza molto molto molto ragionato, non ho visto nessuna carica cattiva e nessuna carica d'uomo. Le caricano di alleggerimento, questo probabilmente è dovuto a un fatto della manifestazione di cui non si è parlato, era enorme. E dopo che sono state date a fuoco le macchine in via Cavour e la manifestazione è partita mezz'ora prima dell'appuntamento, è già cosa strana, il corteo passava avanti facendosi al lato, ma per nulla meravigliato di quello che ci fosse, è come se il corteo aspettasse questa violenza. Beh, insomma, era abbastanza, almeno dai giornali, era data come una situazione plausibile, insomma. Ma la cosa che ha colpito di più e che io ero presente, che in via Merulana, quando hanno cominciato le cariche, e si sapeva perché i telefonini, i figli, i parenti telefonavano, poi ci sono gli scontri, il corteo non si è fermato per la volontà di dire: la piazza me la prendo, al di là di qualunque sia la regia. Sì. Questo dire. No, va bene, è stato chiarissimo. Cioè, la questione è distinta, ma la stessa volontà, a mio modo di vedere, come è successa a Londra da parte della maggior parte dei manifestanti pacifici, a dire metteremo a disposizione delle forze dell'ordine tutti i filmati, le foto, in modo che possiate identificare questi delinquenti. Io li chiamo delinquenti, Barbato, non delinquentucci. Allora è una cosa buona. Fabio da Roma, buongiorno. Sì, pronto? Sì, pronto, ecco, la sento. Buongiorno. No, io volevo soltanto dire una cosa, insomma, a tutti gli onorevoli in generale. Io sono poliziotto e sono stato alla manifestazione del 14 dicembre e ho preso botte. Sono stato alla manifestazione sabato e ho preso botte. Qua sono due volte e vado alla manifestazione che prendo botte per niente, perché poi insomma se vede li rimettono tutti fuori, poi leggi sui giornali i tagli, poi volevo rispondere all'onorevole là dell'Italia dei Valori. Sì. È inutile che si dice no perché là non c'erano poliziotti, là invece sì. Il problema è che i mezzi non ci stanno, i poliziotti non ci stanno e quei pochi che ci stanno vengono messi dove si ritiene opportuno metterli. Quindi o si mettono da una parte o si mettono dall'altra, non è che si vanno a mettere a tutte e due parti. Perché poi giustamente io la prossima volta a un'amministrazione del genere farò in modo di non esserci, perché fare due, del, due non c'è il, tre, il due senza il tre, insomma la terza volta io non ci vado a prendere botte per niente. Questo mi pare Fabio, stia con noi, può stare con noi, può stare con noi Fabio. Ha sentito... Stia con noi perché tra poco risponde l'onorevole Barbato. Intanto Fiorenza Sarzanini, le polemiche sulla questione della gestione dell'ordine pubblico. Fabio, l'agente di polizia che era il 14 dicembre, il giorno della fiducia, e è sabato, e dice non ci sono mezzi, si fa quello che si può. Ci sono davvero polemiche pretestuose o vere, Fiorenza? No, verissime. Io vorrei ricordare che ci sono poliziotti che si pagano le missioni, vorrei ricordare che i poliziotti che erano in piazza sabato, forse, ma non è neanche sicuro, prenderanno quel pochissimo di straordinario fra un anno se ancora ci saranno i soldi. I poliziotti non hanno la benzina per far uscire le macchine, viaggiano su macchine vecchissime perché non ci sono i soldi per cambiare il parco macchine. Quello delle forze dell'ordine è un problema serissimo. Per quanto riguarda l'ordine pubblico, io vorrei dire questo, anche noi sul Corriere della Sera abbiamo cercato di capire quali sono, possono essere stati dei punti deboli nel dispositivo, delle, anche degli errori, però insomma il rischio è che diventi come quando gioca l'Italia, no? Che siamo tutti allenatori, perché poi è vero quello che dice l'onorevole Barbato che non c'erano i poliziotti in divisa vicino al corteo eccetera, però è pure vero che a Genova siccome c'erano i poliziotti in divisa accanto al corteo è successo, la polemica infatti, di militarizzare infatti, i cortei infatti. Quindi bisogna poi mettersi d'accordo, perché io credo che l'ordine pubblico sia la cosa più difficile di tutti da gestire, più delle indagini, più di tutti, perché tu hai una marea di persone in piazza e posso assicurare che sabato in piazza c'erano oltre 150.000 persone, molto variegato era il corteo e quindi è difficile dire metti i poliziotti al lato, no, mettili distanti, fermali. E comunque in ogni caso la manifestazione di sabato ha dimostrato proprio questo, che queste persone si sono occultate nel corteo, perché siccome il corteo era diciamo segnato dal fatto che non si poteva uscire perché tutto era blindato per evitare che queste persone arrivassero nelle sedi istituzionali e loro per forza si dovevano mescolare, tanto che alcuni si travisavano, poi si levavano le maschere e quasi tornavano a essere persone. Sentiamo normali. Onorevole Barbato, c'è tra l'altro Fabio che l'ascolta, agente di polizia, che dice due volte ho preso le botte. Allora adesso perché ha ragione, come tutti i poliziotti e le forze dell'ordine che non vengono dotate neanche dei mezzi minimali. Consideri che da ieri l'altro la DDA di Napoli non può più continuare le ricerche nei confronti dei camorristi di Zagaria, dei Casalesi, perché hanno tagliato i fondi. Insomma, la polizia non può neanche più continuare le ricerche per acciuffare ergastolani, camorristi e mafiosi. Sì, ma lei sta utilizzando, cioè lei ha fatto una polemica forte col ministro dell'interno Maroni, certo, ma voglio dire se lei stamattina sta scassinando un ufficio postale a via Cavour, chiama la polizia, dopo tre minuti arresta. Ma certo, ma lì c'erano 150.000 persone, no, cioè, capisce? 150.000 persone, però quelli che facevano, che compivano questi reati, erano individuati intorno al corpo del reato, che potevano essere un'autovettura o la vetrina di un negozio o di un ufficio postale, e commettevano lì questi atti a cui non si aggiungevano nel modo più assoluto il resto del corpo. corteo. Non so, sentiamo Fabio, che lei è agente di polizia, è davvero così? Cioè succedono gli scontri e voi potete prendere, andare, prendere queste persone, assicurarle alla giustizia? Fabio. No, guardi, assolutamente no. Noi facciamo parte di un gruppo, ogni gruppo ha il suo responsabile. Non è che noi che possiamo andare e prendere, cioè c'è un comando che ci dice voi andate, voi state fermi, ma è difficile che ci dicono singolare, anche perché se ci muoviamo singolarmente, se vediamo qualcosa, noi ci andiamo ma là ci rimaniamo, non ci torniamo indietro se ci muoviamo, infatti si è visto a Genova con la camionetta dei carabinieri, si è visto con il 14 dicembre con la camionetta della finanziaria che ha preso fuoco, sabato con quelli dei carabinieri, che tutti da soli, e tutti da soli ci sono rimasti. Là se non ti muovi in gruppi molto numerosi, e là rischi che io da mio figlio non ci torno più a casa, perché poi noi se facciamo qualche fesseria, per carità, perché ce ne stanno tante e fanno fesseria, però finiamo su tutti i giornali. Questi se fanno qualche cosa, vabbè, il poliziotto ha fatto il suo dovere. Senta, lei Fabio quanto prenderebbe o prenderà e quando per questo servizio? Guardi, che ha fatto sabato? Io sto ancora aspettando i soldi dello straordinario del 14 dicembre. E quanto ammonta una giornata così di straordinario? Guardi, noi ci pagano i giorni festivi, quindi sabato non è neanche festivo, di straordinario andiamo a prendere 12 euro lorde. Al giorno? Per farmi dire un San Pietrino, che se te prende 12 euro non ci abbassa manco per farmi il funerale, quindi voglio dire. Questo è chiaro. È veramente, voglio usare una parola forte, uno schifo. Io sono entrato 15 anni fa e ogni governo che entra, chiunque, quando è all'opposizione, non è giusto, prendono poco. Poi vanno al potere e niente, tagliano. E adesso tutti così, tutti. Io sono 15 anni che sto dentro, sono 15 anni che sento sempre le stesse cose. Io con questo sfogo e su questo sfogo però la devo fermare perché il tempo è finito. La ringrazio Fabio che ci ha chiamato come ascoltatore, ma insomma agente di polizia, ma avete sentito, a volte le testimonianze anche degli ascoltatori sono molto esemplificative. Fiorenza Sarzanini, inviata del Corriere della Sera, grazie, così come l'onorevole Franco Barbato dell'Italia dei Valori, e allora col nostro alpino Peter Bescapè in regia, e anche dalla nostra redazione Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni e Viola Bottoni, ciao a tutti. Tutti oni, va bene, a domani alle 7:20.